Sexta, viaggio nel nuovo contesto digitale di Pepe Moder. La terza tappa di Piccola Industria Avanguardia di Crescita, il tour di Confindustria Piccola Industria volto a parlare di innovazione alle piccole imprese, ha toccato Brescia. Era il 31 ottobre, un paio di settimane fa, e Elisa Torchiani, il presidente di Piccola Industria, Associazione Industriale Bresciana, ci ha dato il benvenuto in un contesto di piccole imprese che ascoltavano i nostri interlocutori: Fabrizio Longo di Audi, Carlo Robiglio, il presidente di Piccola Industria di Confindustria, e Paolo Marini, l'amministratore delegato di ICAP Group, che oggi abbiamo ai nostri microfoni e che salutiamo. Buongiorno Paolo. Buongiorno a te, Verri. Parliamo di filiere di crescita. Che cosa significa oggi fare filiera per una piccola azienda come ICAP, che sì, è vero, fattura 20 milioni, è leader di mercato di una ipernicchia, che poi ti chiederò di esplicitare esattamente di che cosa fa, ma che lavora in un contesto mondiale. Cosa significa oggi fare filiera? Ma significa essere inseriti in un contesto in cui si raccolgono le informazioni relativamente al mercato, al prodotto, alla tecnologia, e si offre dal nostro punto di vista quello che è la capacità di trovare risorse, risposte a problemi nel nostro caso della grande industria. Mm-hmm. Tutto nell'ambito nel caso specifico dell'automotive, e in un contesto molto stimolante, competitivo, molto performante. Voi lavorate in un mercato che sta cambiando drammaticamente, quello dell'automobile. Cosa significa fare oggi innovazione in questo mercato dove il capofila sono solo degli enormi colossi, e abbiamo sentito anche lì poche settimane fa Fiat Chrysler e Peugeot che arriveranno a fondersi? Ma è cambiato un po' il sistema. Mentre prima, fino a qualche tempo fa, qualche anno fa, il driver era fondamentalmente tecnologico, cioè l'ingegnere guidava la modifica del sistema, oggi si tende a seguire le aspettative del cliente, quindi è evidente che è completamente cambiato il contesto. Non è più un fatto puramente tecnologico, ma è tecnologico insieme al design, insieme al comfort, insieme alla sostenibilità. Quindi sono inserite e si sono aggiunte una serie di variabili aggiuntive. E quindi anche una serie di nuove partnership. Cioè, mentre prima, tutto sommato, si viaggiava per comparti, io davo un pezzo, poi qualcun altro ci faceva qualche cosa. Oggi dobbiamo essere obbligatoriamente tutti insieme, perché il prodotto o funziona nel suo insieme o non funziona. Ma come fanno culture diverse di aziende differenti che ormai lavorano in mercati differenti o provengono da mercati differenti a lavorare tutte per lo stesso obiettivo? È perché si sposta il baricentro e il focus dal prodotto al mercato, all'utilizzatore. Mm-hmm. Quindi evidentemente si deve individuare una piattaforma comune che è la soddisfazione dell'utente finale, fondamentalmente. Mm-hmm. E quindi sulla base di quello ognuno aggiunge, porta un'esperienza, cerca di capire cosa può fare affinché, e quindi dobbiamo lavorare sempre con una doppia veste: quella di realizzatore di componenti, di innovazione e tecnologia, ma anche quella di utilizzatore, cioè chiedersi: ma io questa cosa mi piacerebbe, la comprerei, potrebbe fare al mio caso? E se la risposta è no, probabilmente bisogna farsi qualche domanda aggiuntiva e cambiare l'approccio. In due parole, che cosa fa ICAP Group? ICAP Group fa impianti tecnologici robotizzati di produzione nell'ambito del vetro auto. I nostri clienti sono le grandi vetrerie, e noi fondamentalmente analizziamo quelli che possono essere i fabbisogni di produzione dei nostri clienti, proponiamo una linea di produzione, quindi linea di fabbricazione. Se il progetto riscontra il gradimento del cliente, procediamo alla realizzazione, alla messa in campo, avviamento, test, training e tutto quello che fa parte di una linea di produzione. Oggi fare filiera, quanto è dispendioso e quanto invece può portare effettivamente valore, non solo direttamente economico, ma anche valore di natura culturale, innovazione, accrescimento, sfida? Allora, è evidente c'è una dose di investimenti importante, purtroppo non quantificabile fisicamente, perché l'investimento più importante è quello nella cultura mm-hmm. aziendale, nell'area, diciamo, software dell'azienda, fondamentalmente, che però non solo ritorna, ma diciamo che fa sì che l'azienda rimanga sul mercato, perché il gioco non è più adesso a quanto e quando ritorna l'investimento, ma è se l'investimento è necessario per mantenere la posizione di mercato, addirittura non uscircene. È ancora pensabile mantenere le dimensioni della piccola impresa in questi contesti internazionali dove ci si fronteggia con dei giganti? O è necessario, come sta accadendo in altre geografie, creare sinergie, creare fusioni, fare aziende più grandi, fare massa critica per riuscire a gestire la competitività e il valore di produzione? Io personalmente non ho mai creduto alla frase bello e piccolo, ma in questo momento storico assolutamente fuori luogo. Perché? Spiegacelo meglio. Perché i mercati, la tipologia di business che ognuno di noi in diversi campi quotidianamente è costretto o fortunatamente ha l'opportunità di fronteggiare è talmente vasta che non si riesce a fronteggiare una dimensione contenuta, o perlomeno non nel lungo periodo. Puoi anche mantenerla in questa fase, ma attendere mostrerà delle difficoltà, delle debolezze. Poi l'aggregazione può essere fatta in tanti modi, può essere fatta un'aggregazione temporanea, può essere fatta un'aggregazione del progetto, può essere fatta un'aggregazione to core, quindi una fusione di più strutture, può essere fatta in partnership, in filiera, voglio dire, ce ne sono molte di attività e di modalità con cui aggregarsi. Ma bisogna per forza diventare grandi? Non c'è un po' la paura di perdere l'identità? Non è obbligatorio diventare grandi. Grandi diventerà poi una condizione per sostenere un certo tipo di business. Bisogna sicuramente crescere. Crescere non è soltanto essere più grandi. Crescere è imparare a gestire in maniera diversa delle altre cose, quindi è culturale prevalentemente. Quindi è imparare a gestire la complessità, la crescente complessità. Esatto. Quali sono le skill necessarie oggi ad un manager, ad un imprenditore, a un dirigente all'interno anche di piccole industrie? Perché voi comunque, pur essendo una piccola impresa, avete comunque un'organizzazione fondata anche sulla delega e la dirigenza, no? Ecco, quali sono le skill che sono richieste a questo tipo di imprese per essere competitive? Per un'impresa che ha come driver la tecnologia, secondo me una delle caratteristiche principali è la curiosità. Cioè uno deve essere curioso, capire cosa c'è dietro l'angolo, che non significa abbandonare quello che fai, perché poi purtroppo o per fortuna dobbiamo sempre tenere presente che c'è da mantenere gli impegni, abbiamo gli stipendi, abbiamo i fornitori, certo, abbiamo tutta una serie di cose, certo, e quelli vanno fatti in un certo modo, però dobbiamo sempre crearci un po' di tempo, un po' di attenzione per capire ma dopo questo cosa si posso fare. Poi non è detto che si debba fare, ma io lo devo conoscere, quindi avere sempre questa curiosità di base, questa una sorta di sindrome da esploratore. Il presidente Robiglio, quando avevamo fatto la nostra tavola rotonda, mi colpì perché citò un argomento sul quale io sono particolarmente caldo, il fatto che non ci sia in Italia la cultura dell'errore e quindi la non capacità, prima di tutto da parte degli imprenditori e poi ancora di più dai manager, di prendersi dei rischi, o meglio, di accettare che le proprie persone a cui diamo la delega possano prendersi dei rischi e possono anche sbagliare. Come funziona il Recap Group e qual è il tuo punto di vista? Ma il mio punto di vista è che personalmente ho imparato solo dagli errori. Quando le cose vanno bene non ti rendi conto perché. Quando commetti un errore sei obbligato ad analizzare che cosa è successo e quindi probabilmente impari, anzi sicuramente impari. E io sono molto d'accordo su quello che ha detto Robiglio, perché in realtà noi abbiamo una cultura del vincitore e basta, cioè chi perde è fuori dal gioco, ma in realtà non funziona così, la vita non è così, la vita è una somma di errori e tu vai avanti se gli errori sono meno delle cose che hai fatto giusto, certo, ma zero errori è impossibile. Allora si tende come cultura a nascondere tutto quello che si è fatto di sbagliato, non analizzandolo, non offrendolo agli altri come esperimento, esperienza, dice guarda lì c'è uno spigolo, attento, camminaci largo, e questa cosa inevitabilmente impoverisce, non arricchisce nessuno. Cioè, altri paesi, io guardo molto alla cultura anglosassone da questo punto di vista, che c'è molto da imparare per conto loro, invece non hanno nessun problema, un imprenditore, un'impresa, un soggetto può compiere degli errori, addirittura fallire, non è né un'onta personale né un marchiafuoco impresso a vita, è soltanto una cosa sbagliata su cui si può recuperare e ricominci. C'è un modo in cui viene gestito l'errore in azienda da voi? È accettato? è accettato. Evidentemente ogni funzione e poi le sensibilità dei singoli sono diverse uno dall'altro, però sì, da parte mia è assolutamente accettato l'ordine di scuderia aziendale, l'ordine, cioè l'errore non solo è accettato, ma va esplicitato. Va condiviso. Va condiviso per capire che è successo, per vedere che la prossima volta cosa possiamo fare, e quindi non c'è nemmeno il timore di decidere, perché uno dei problemi dell'errore è che se tu questo errore diventa un elemento negativo e una macchia sul curriculum, non prendi più nessuna decisione. Non prendi più nessuna decisione. Certo. Perché è l'unica maniera per non sbagliare. Bravo, però non vai avanti. Senti, volevo concludere facendoti una domanda relativamente agli orizzonti temporali dell'innovazione. Siamo in un'economia che sta restringendo sempre più i tempi. Tutto subito, immediato. L'asticella sempre più in alto e deve essere tutto disponibile ieri addirittura, no? Ma per cambiare, per fare innovazione, quindi per dare dei passi differenti, delle velocità differenti all'impresa, sono necessari dei tempi più lunghi. Come si conciliano queste due cose e quali delle due dovrà necessariamente cambiare se non si riesce a trovare una conciliazione? Premesso che alcune cose hanno dei tempi di gestazione lunghi, fisiologici. Qualche giorno fa c'è stato l'Internet Day. Sì. No, allora, io non avevo fatto caso che il primo dato passato in etere era 50 anni fa, forse non lo sapevo nemmeno. Sì. Sembra che l'abbiano scoperto ieri, in realtà sono 50 anni che ci stanno lavorando sopra. Sì. Poi la tecnologia ha fatto sì che c'è stata un'accelerazione. Allora questo in qualche maniera è anche applicabile all'interno delle aziende, cioè uno ha una strategia, una visione, una volontà di posizionare l'azienda e quindi l'innovazione conseguente in un certo modo, deve pianificare questi percorsi, deve darsi dei tempi che siano congrui, e non si può fare un'operazione a livello di mesi, ci vogliono anni per creare un'attività di questo genere, e magari confrontandosi giorno per giorno con i paletti che ti sei messo come milestone di verifica. Io non ho mai creduto alla politica né dei 100 giorni né del 6 mesi riaggiusto tutto, perché non funziona così. Io ho sempre pensato che ci vogliono anni per mettere a posto le cose, e se le hai fatto in un tempo lungo, anche per rompersi ci vorrà un po' di tempo, quindi te ne accorgi quando si cominciano a rompere. Forse hai tempo anche di metterci le mani. Era Paolo Marini, amministratore delegato di Capgroup, che ringraziamo ai microfoni di Radio Next. Grazie mille Paolo. Se vuoi. Ringraziamo ovviamente anche i nostri ascoltatori per questa puntata di Radio Next dedicata al tour Piccola Industria Avanguardia di Crescita di Confindustria Piccola Industria. Noi ci sentiremo il mese prossimo con una nuova puntata dedicata al tour di Piccola Industria Avanguardia di Crescita direttamente dalle Marche, dove avremo un nuovo incontro sul tema in argomento. Come sempre la nostra mail radionext@radio24.it è a vostra disposizione. Buona giornata.